24 Storie di star. Donizetti era uno scrittore di musica irrefrenabile. Non poteva stare con la penna a riposo e doveva scrivere musica. Donizetti credo aveva anche una capacità di una dimensione amichevole molto forte. È stato un uomo straordinario dal punto di vista proprio del carattere, della gioia di vivere, della amicizia per tutti, l'amore e il rispetto per i rivali. Non c'è musicista napoletano più napoletano del bergamasco Gaetano Donizetti. Voglio a casa mia, insomma, mi voglio a casa mia, insomma, la cultura napoletana si è incollata come un tatuaggio, come un geco a lui, così forte, così esaltante, così piena di entusiasmo, di energia, così meravigliosa, non poteva che intaccare un bergamasco anche, no? Quell'esperienza napoletana lo ha ribaltato vestito e rivestito. L'8 aprile del 1848 a Bergamo muore Gaetano Donizetti, l'autore della Lucia di Lammermoor, dell'Elisir d'amore. In quelle stesse ore divampano i moti rivoluzionari che scuotono l'Europa. Il grande musicista non parteciperà però all'epica lotta dei popoli per la libertà. Eppure, è lo stesso Mazzini a scrivere che in Donizetti c'è più di un presentimento. Oggi a Mix24 raccontiamo la storia di un musicista patriota, capace di infuocare gli animi degli italiani con il teatro musicale, con il melodramma. L'artista bergamasco diventa, nelle parole del padre del Risorgimento, una bandiera del pensiero e dell'azione per l'unità del nostro paese. Così scrive Mazzini. Chi scrive non sa di musica, se non quanto gli insegna il cuore o poco più. Ma nato in Italia, ove la musica ha patria e la natura è un concento e l'armonia si insinua nell'anima con la prima canzone che le madri cantano alla culla dei figli, egli scrive senza studio, come il cuore gli detta. Il Risorgimento unisce la cultura alla civiltà. I melodrammi di Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi educano il popolo. Lo spiegano Giulio Ferroni, docente di letteratura italiana, e Bruno Cagli, musicologo e presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. All'inizio dell'Ottocento e in tutta la fase poi del Risorgimento, ma ancora per tanti decenni dopo l'Unità, l'analfabetismo è grande nel nostro paese, la letteratura si rivolge ad un pubblico relativamente limitato, con un'aspirazione anche ad ampliare i suoi spazi, a far crescere una classe borghese che è ancora embrionale, si può dire, rispetto al resto d'Europa. No? Circolazione più ampia riesce ad avere il melodramma soprattutto nelle città, negli ambienti borghesi, ma attraverso l'esperienza dei teatri, il successo delle romanze e anche di certe trame si propaga anche fuori dalle città, fuori dall'ambiente borghese c'è una conoscenza, no, delle grandi aree d'opere perfino in zone marginali del paese, almeno per ciò che riguarda l'Italia settentrionale. Quindi da questo punto di vista il linguaggio letterario attraverso i libretti del melodramma riesce a filtrare al di fuori degli spazi dei lettori alfabetizzati. L'intonazione diffonde la lingua in maniera molto migliore del parlato, questo è evidente. Allora tutti hanno a memoria gli incipit delle grandi arie della Lucia di Lammermoor, la Pazzia o del Trovatore di Verdi Tacea la notte placida, lo possiamo discutere forse dal punto di vista letterario nel prosieguo. Nella mente della gente questi versi sono rimasti e sono rimasti in tutto il mondo. Teatro è un luogo di incontro, di raccordo, no? di coscienza collettiva, per cui attraverso la musica, no? C'è, al di là dei contenuti proprio dei libretti, al di là delle stesse trame, insomma, no? La musica dà sempre quella spinta, no? Che al movimento, all'azione. Una vita avventurosa, costellata di trionfi e di clamorosi insuccessi. Una carriera che all'alba di un nuovo mondo attraversa l'Italia, la Francia, l'Inghilterra e l'Austria. Pagine di note che restano scolpite per sempre nella storia della musica e nel cuore degli appassionati. Ma Donizetti non è Verdi e neppure Rossini. È un risorgimentale quasi per caso che anticipa un'epoca e ne diventa un simbolo. Eppure, nonostante la sua grandezza, nonostante tutti i suoi successi, morirà dopo una lunga malattia che ha il marchio della vergogna. Parigi, Hotel Manchester, 1 gennaio 1846. Una carrozza con a bordo il giovane Andrea Donizetti si ferma per far salire lo zio Gaetano. La destinazione è Vienna, dove il musicista, così gli viene detto, è atteso per un importante incarico alla corte di Ferdinando I d'Asburgo. In realtà, dopo un viaggio di sole 3 ore, la vettura, con una scusa, varca la soglia del manicomio di Ivry. Donizetti, che ha 49 anni, uscirà dal manicomio dopo 2 anni grazie all'amicizia della baronessa Rosa Basoni, che lo assiste e gli offre ospitalità. Su Mix 24, con la storia del musicista risorgimentale Gaetano Donizetti, continuiamo subito dopo la viabilità. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Donne! Tirate fuori le vostre Barbie dalle soffitte, dalle cantine, dai cassettoni e dagli sgabuzzini. Fatevi una foto assieme alla Barbie della vostra vita e mandatela a melog@radio24.it. Saranno selezionate solo 150 donne che, assieme alle loro bambole, saranno le fortunatissime protagoniste della Notte delle Barbie Viventi. Avverrà la notte del 17 febbraio al Mudec di Milano. Ci sarò io, ci sarete voi, ci sarà Barbie. Chi verrà non lo dimenticherà mai più. Mix 24, storie di star. Bentornati a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia del grande compositore Gaetano Donizetti. Nato a Bergamo il 29 novembre del 1797 da Andrea, portiere al Monte dei Pegni, e Domenica Nava, tessitrice, a 8 anni entra nella scuola caritatevole della chiesa di Santa Maria Maggiore a Bergamo, una scuola di canto e cembalo. Così Donizetti descrive la sua infanzia. Nacqui sottoterra in Borgo Canale. Scendevasi per una scala di cantina, ove ombra di luce non mai penetrò, e siccome gufo presi il mio volo, portando a me stesso or triste or felice presagio, non incoraggito dal mio povero padre, che ripeteami sempre: è impossibile che tu scriva, che tu vada a Napoli, che tu vada a Vienna. La città di Bergamo aveva una delle istituzioni musicali più importanti dell'Italia settentrionale. Ce lo spiega il direttore scientifico della Fondazione Donizetti, Paolo Fabbri. Bergamo è tra le primissime città, la seconda, insomma, in Italia, ad avere una scuola pubblica e in modo particolare aperta a studenti che vengono da famiglie povere. Il padre di Donizetti non era assolutamente, non faceva parte del mondo della musica, però per qualche motivo pensò forse che i figli potessero trovare nelle varie carriere musicali uno sbocco professionale utile. Per studiare la musica per un giovane Era un modo di scappare di una vita di povertà. Era il docente Philippe Gosset. Nel 1808, la congregazione dei finanziatori della scuola chiede di allontanare Gaetano Donizetti. Le sue capacità vocali vengono ritenute insufficienti. Ma il direttore della scuola, Johann Simon Mayr, crede fermamente nel talento del giovane allievo e modifica il regolamento per permettergli di continuare gli studi musicali anche dopo il cambiamento della voce. Mayr diventa così una figura fondamentale nella formazione di Donizetti, un punto di riferimento fino alla fine della sua vita. Ce ne parlano il docente di linguaggio musicale all'Università di Chicago, Philippe Gosset, ed il musicologo Fabrizio Della Seta. Mayr è stato poi il maestro di cappella del grande chiesa di Bergamo e poi è diventato anche il capo di una scuola di musica. Lo prese sotto la sua protezione e fu il suo primo e vero grande maestro, e questa influenza fu molto importante perché attraverso Mayr Donizetti ebbe fin dall'inizio un rapporto, una conoscenza della grande tradizione classica. E non era normale per un compositore italiano conoscere la musica di Haydn, di Mozart e di Beethoven. Per un giovane musicista di Bergamo, piccola città in quell'epoca, l'idea di andare ai grandi centri operistici nel mondo come Napoli, come Vienna, come Parigi, era quasi inaudito. Non si potrebbe immaginare una cosa di questo genere. Direttore dei Reali Teatri di Napoli, scritturato da Gioacchino Rossini a Parigi, maestro di cappella, Donizetti è compositore alla corte di Ferdinando I d'Asburgo, nello splendore della Vienna imperiale, e calca i palcoscenici di tutta Europa. Ha la stima di Rossini, mentre Bellini lo chiama Dozzinetti, deridendo la sua foga produttiva e la facilità con cui passa da un genere all'altro. Poi, il silenzio artistico di Rossini e la morte precoce di Bellini lasciano Donizetti protagonista assoluto della scena musicale, prima che arrivi il successo di Giuseppe Verdi, come raccontano i musicologi Bruno Cagli e Fabrizio Della Seta. Lui era irrefrenabile. Da questo punto di vista è chiaro che una divisione di qualità esiste. Non tutto è all'altezza della Lucia di Lammermoor, non tutto è all'altezza del Don Pasquale o dell'Elisir d'Amore. La cosa meravigliosa di Donizetti è le cose meravigliose sono due. Intanto è stato un uomo straordinario dal punto di vista proprio del carattere, della gioia di vivere, della amicizia per tutti, l'amore e il rispetto per i rivali. Donizetti non ebbe mai nessuna remora a proclamare la sua ammirazione per le opere di Bellini, mentre non si può dire il contrario. E questa sua ammirazione era così sincera che subito dopo la morte di Bellini gli volle comporre un requiem alla sua memoria, e forse non sapeva che Bellini nelle sue lettere confidenziali agli amici diceva tutto il male possibile di lui. Il pubblico lo ama, lo critica, lo stronca, clamoroso è il caso di Zoraida di Granata, l'opera che rivela il giovane Gaetano Donizetti al pubblico italiano. A pochi anni dal debutto di Zoraida, Stendhal commenta: Donizetti, che due anni fa era l'idolo dei romani, che la sera della prima rappresentazione di Zoraida di Granata lo scortarono fino a casa al lume delle torce gridandogli la loro ammirazione, ci ha annoiati mortalmente. Il 7 di questo mese con la stessa Zoraida. Nel 1822, al Teatro Argentina, Donizetti si impone all'attenzione del pubblico con Zoraida. Il debutto è segnato da un colpo di scena. Amerigo Sbigoli, il tenore che ha il ruolo di protagonista, muore durante le prove di Cesare d'Egitto di Giovanni Pacini. A pochi giorni dalla prima di Zoraida, Donizetti riscrive il testo e taglia la parte di Abenamet, adattandola ad un contralto, l'unico disponibile a sostituire Sbigoli. Il pesante intervento di Donizetti sul libretto di Zoraida è obbligato, ma anticipa l'evoluzione artistica del compositore, come conferma il musicologo Fabrizio Della Seta. Nel corso del primo Ottocento si assiste a una profonda rivoluzione della figura sociale pubblica del musicista, del compositore italiano. A poco il compositore passa dalla condizione di artigiano, di prestatore d'opera, a quella di professionista e in qualche misura di intellettuale. In Donizetti è evidente questa volontà di emancipazione da un ruolo tradizionale. L'atteggiamento di un compositore come Donizetti chiaramente era molto diverso quando aveva a che fare con un poeta dalla fama consolidata, da cui opinioni ovviamente doveva in qualche modo discutere, ma sempre con un atteggiamento di deferenza, e quando invece si trova a collaborare con librettisti alle prime armi. E qui in questi casi viene fuori la tempra di vero drammaturgo di Donizetti, che riesce a dare, con la sua esperienza teatrale ormai acquisita, riesce a dare una sua impronta personale non solo alla musica ma anche alla drammaturgia generale. Quando Donizetti debutta sulla scena, il cartellone obbedisce ad un ordine rigoroso. Prima il librettista, poi il cantante ed infine il compositore. Sono il librettista e il primo cantante a determinare il successo di un'opera. Se alla prima rappresentazione l'opera viene applaudita, le recite continuano. Se invece è segnata ad un insuccesso, il primo a scomparire dal cartellone è il compositore. È l'impresario che propone i compositori e che si espone economicamente, mentre il teatro offre solo i mezzi per la messa in scena. Ce ne parla il musicologo Gioacchino Lanza Tommasi. I teatri che lei vede hanno fatto l'opera, sono stati San Carlo prima di tutti, anteriormente. San Carlo era il teatro che, siccome c'era una monarchia ed era un teatro di corte, era un teatro pubblico, quindi con un'orchestra professionale pagata, ed era la migliore orchestra d'Italia. Poi c'era Venezia. Venezia invece era il grande teatro della oligarchia veneziana, era un teatro della nobiltà, quei palchettisti, e lo dirigevano loro. Roma aveva due grandi teatri in mano ad impresari, e poi c'era la Scala. Donizetti arriva a Napoli chiamato da Gioacchino Rossini, che gli affida il suo primo incarico importante. Diventa direttore musicale del Real Teatro San Carlo, un incarico che terrà per 16 anni. Su quel palcoscenico non solo consacrerà il suo più grande successo, La Lucia di Lammermoor, ma rappresenterà 16 nuove opere. Per il musicista di Bergamo, quelli di Napoli sono gli anni più creativi e stimolanti. Ce ne parlano gli attori Peppe Barra e Antonio Albanese. Donizetti, secondo me, arriva a Napoli in un periodo molto importante, che è quello delle feste. Settembre è la festa di Pedigrotta. Trovandosi in questa festa orgiastica, in questa festa di suoni, di canti e soprattutto di ritmi popolari e di voci e di tamurriate, di tarantelle e di canti a figliola, che sono questi canti a voce distesa, che praticamente si cantavano in un rione e si ascoltavano ad un altro rione, tanto era la potenza di queste voci, viene chiaramente coinvolto e viene sedotto da questa festa, e forse, quasi sicuramente, scrive Io ti voglio bene assai. Io ti voglio ben assai. Tutta la musica colta è stata influenzata dalla musica popolare, da tutto quello che scaturisce dal cuore del popolo. È riuscita la musica a fondersi con la cultura ufficiale e la cultura popolare, fino ad arrivare, ecco, a Donizetti, che è un grande, che si è espresso appunto attingendo dalla musica popolare. Buona manie, va a parlare o brigadier, mentre la vengo mestiera, is, a vocanze scappa. Ma voglio fare una casa mia somare, fra vacata, rapenna, rapavona. E praticamente è anche il culto, è un retaggio del barocco, perché una casa fabbricata di penne di pavone è proprio una visione barocca che evidentemente seduce un po' tutto, anche tutti i cuori dei poeti e dei musicisti. La cultura napoletana si è incollata come un tatuaggio, come un geco a lui, così forte, così esaltante, così piena di entusiasmo, di energia, così meravigliosa, non poteva che intaccare un bergamasco anche, no? E allora il travesti di Mammagata nelle convenienze è senz'altro un'idea comunque storica che lui ha praticamente rubato e ha incorporato. Quell'esperienza, almeno seguendo, leggendo la storia di Donizetti, quell'esperienza napoletana lo ha ribaltato, vestito e rivestito. È stato per lui una grandissima fortuna. E poi visse il rondone più bello, caro ma strumentale se può. E poi visse il rondone più bello, caro ma strumentale se può. Visse mentale se può. Visse mentale se può. Credo che per Donizetti sia stato un po' anche vivere e convivere con Napoli, con i meravigliosi napoletani, sia stata anche una sorpresa inventare questa sorta di travestito. È un basso che interpreta una donna, quindi su questo lui ha fatto un po' perno. Non... Aperto sotterraneo, cemento nel fondale. È la prima donna. Prima ciuccio, poi ciuccio e poi animale. Ma questo è troppo caldo. Allora, è poco animale. Esatto. Quest'agata faccia impertinente. Sì, ma sto pallabono, o capotella sono. Ma questo è un grazzo, è troppo certo. Leggo i versi di ieri, o fiasco non è vero. Ma zucca cotestei. Lasciate quel pezzicolo. La figlia bastisciata. Disprezzo quel maestro. La coppia diffamata. Se bella la pazienza. Dai, dai! Non c'è musicista napoletano più napoletano del bergamasco Gaetano Donizetti. Non solo per le meravigliose canzoni napoletane che ha scritto, ma per quello che ha fatto a Napoli, al San Carlo, che allora era il primo teatro del mondo. Avete sentito il critico musicale Bruno Cagli su Mix 24 con la storia del compositore bergamasco Gaetano Donizetti. Continuiamo subito dopo la pubblicità. Si impara all'estero, l'importante è imparare i migliori e tornare per applicare il know-how che hai preso all'estero. Io sono contento nel mio piccolo di fare qualcosa nel mio paese, cioè quello di tornare, di lavorare con musicisti italiani, fare concerti, fare CD e tour in Italia. Qualcuno torna, è vero, ma sono sempre di più quelli che se ne vanno. In Italia, secondo me, non si può parlare di circolazione di talenti, ma è solo fuga. È sempre il discorso della meritocrazia, che in Italia non esiste, è un dato di fatto in tutti i settori. A Giovani Talenti ogni sabato vi raccontiamo l'emigrazione, l'espatrio, la fuga dei nostri migliori talenti. Puntiamo il dito contro la peggiore Italia, quella che vi obbliga ad andarvene e che ostacola l'innovazione, l'Italia degli amici, dei figli, dei parenti. Allo stesso tempo, incoraggiamo chi decide, con coraggio, di tornare e cambiare le cose. Sono Sergio Nava, vi aspetto con Giovani Talenti ogni sabato alle 13.30 su Radio 24. Radio 24 ti porta nel vivo del Festival di Sanremo. Ogni giorno Enrico Ruggeri ci racconterà le emozioni e i personaggi da un punto di vista speciale, quello di chi partecipa alla gara. Appuntamento con il Sanremo di Ruggeri, dall'8 febbraio nel GR delle 7 e in effetto giorno. Nella stessa settimana, con Il Falco e il Gabbiano, speciale Sanremo, alle 15.30, rivivremo insieme gli anni più significativi di questo grande evento. Inoltre, come sempre, con l'inviata Marta Cagnola, la cronaca del festival. Novità e curiosità nei giornali radio e nei programmi. Radio 24. La passione si sente anche al festival. Mix 24. Storie di star. Rieccoci a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia di un musicista di talento. Gaetano Donizetti, bergamasco, arrivato a Napoli a dirigere il San Carlo. la canzone napoletana prima di tutto, poi una nuova concezione dell'opera buffa, costruita prendendo a prestito gesti e fisicità dal teatro di prosa. Il compositore bergamasco avvia un dialogo serrato e inedito tra la cultura popolare e il melodramma, destinato a raggiungere un pubblico sempre più vasto, e passa con disinvoltura dal genere serio al genere buffo, come nell'opera Don Pasquale, di cui ci parlano i due interpreti Bruno De Simone e Mario Zeffiri. Con Don Pasquale l'opera buffa assurge a un livello diciamo estremamente alto. Non per niente si parla di una commedia di costume in cui il rilievo della psicologia dei personaggi è assolutamente fondamentale. Siamo in un'opera come quella di Don Pasquale che è l'ultimo di una grande serie di opere comiche della tradizione italiana, della scuola napoletana. La prossima, figuriamoci, sarebbe Falstaff di Verdi dopo tanti anni. È un personaggio ibrido perché raduna elementi della commedia d'arte napoletana, però anche elementi romantici dell'opera europea, romantica, che come quella che fu di Verdi o della scuola tedesca o della scuola francese. Dunque non è un personaggio del tutto comico, è un personaggio semiserio, infatti ha dei momenti ovviamente comici, ma ha dei momenti puramente romantici e malinconici, come quella sua bellissima aria con il solo della tromba. Donizetti sembra che la sua dote maggiore sia la sua capacità di adattarsi in maniera molto facile a generi e a convenzioni diverse. È uno dei pochi compositori che ancora scrivono opere buffe di successo e che ancora oggi reggono le scene, come l'Elisir d'amore e Don Pasquale. Avete sentito Fabrizio Della Seta. Donizetti dunque scardina lo schema classico dell'opera buffa, alternando elementi scherzosi a momenti malinconici. In un'opera giocosa come Elisir d'amore inserisce una romanza come una furtiva lacrima. Inventa il melodramma giocoso e mette a punto inoltre la scena della pazzia, uno schema che ricorre anche in Rossini e Bellini. Ce ne parlano il presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Bruno Cagli, e il musicologo Gioacchino Lanza Tommasi. Donizetti ha inventato una categoria che nell'opera lirica è importante, l'ha inventata insieme con Bellini e con gli altri romantici, che è la scena di pazzia. Le scene di pazzia in qualche modo sono tristi, si comincia con l'Anna Bolena, con le reminiscenze del passato, eccetera, però trasmettono questo senso della vita. Il principio della pazzia, cioè di queste donne che per amore impazziscono, qualche volta rinsaviscono e finisce bene, qualche volta rinsaviscono e finisce male invece. Donizetti ha fatto tutte e due i sistemi, perché la Lucia non rinsavisce e finisce male, ma per esempio in Linda di Chamonix lei rinsavisce e finisce bene, si sposa. Oh, Uscì anche se avvale di una cosa, è un'opera che si svolge tutta di notte e lei, lo spettatore, ha la sensazione di questo mondo della notte, del sogno. Non è, è un'opera che mette già in una dimensione diversa. Questi sono già delle persone segnate che si ritrovano in queste circostanze eccezionali. Lucia è felicissima in questa sua fare un'opera seriale. Diciamo, il modello qui è riempito alla perfezione, però il copione è sempre lo stesso. Ci sono degli elementi, diciamo, sentimentali, se vogliamo, che ricorrono costantemente. In Lucia questo è assolutamente perfetto, perché ci sono alcuni pezzi. Il duetto Lucia è del fratello, primo atto. Poi il sestetto è un pezzo colossale, il seguito, la pazzia, è un pezzo colossale e poi c'è un finale, perché ecco, dove lei non può parlare più di seriale, per esempio nella morte, tu che a Dio spiegasti l'ale, quello è qualcosa di assolutamente superiore a ogni immaginazione. Il periodo napoletano di Gaetano Donizetti si chiude dopo 16 anni. È il 1838. Sono anni cruciali in cui il musicista mette a punto il suo stile, raccoglie consensi e consolida la propria fama sui palcoscenici milanesi. Nel 1830, con Anna Bolena, che debutta a Milano, arriva il primo grande successo internazionale. L'opera viene portata anche a Londra e a Parigi. Nel 1832 è la volta del trionfo de L'Elisir d'Amore, 32 repliche consecutive. Poi c'è il successo di Lucrezia Borgia, seguita nel 1834 da Maria Stuarda. Nel 1835 il San Carlo di Napoli consacra la più famosa tra le opere serie di Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor. L'incarico di Napoli si chiude con una delusione cocente. Il Poliuto, infatti, viene stroncato dalla censura. Donizetti allora lo ritira dalla scena e decide di andarsene a Parigi, una capitale più moderna e più liberale, come raccontano il docente Giulio Ferroni e i musicologi Bruno Cagli e Paolo Fabbri. Ci sono casi molto frequenti, no, di intervento della censura nei confronti di libretti e di costrizione per il musicista a fare cambiamenti, no? O in alcuni casi addirittura le opere erano state programmate da tempo, ma poi il libretto appariva troppo pericoloso dal punto di vista politico e veniva censurato e l'opera addirittura abolita, come fu il caso del Poliuto nel 1838 a Napoli, no? Dove il re di Napoli, il re delle due Sicilie, come si chiamava allora, appunto abolì la rappresentazione. Donizetti, dopo questo episodio, collegato a tanti altri episodi precedenti, decise di trasferirsi definitivamente a Parigi, dove però era stato già varie volte precedentemente. Il Poliuto è un'opera in qualche modo rivoluzionaria, non perché celebri l'unità d'Italia, celebra l'italianità e la romanità, quindi questo è un elemento costituente della sensibilità e della cultura che dovrebbero essere alla base e sono alla base poi del Risorgimento. Ebbene, il Poliuto, la censura lo trovò, lo proibì. Non perché fosse presentasse delle indegnità, dell'immoralità, ma al contrario, perché portava in scena la vicenda di un martire cristiano. Cose che si addicono alla chiesa, il teatro è un luogo profano e sembrava quasi che mancasse di rispetto, insomma, alla sacralità del tema, questo farne oggetto di uno spettacolo teatrale. Oppure ci sono dei casi di intervento su particolari, per esempio l'evocazione della patria, degli elementi e della libertà, no? Qualche volta solo nominare la libertà veniva considerato un po' pericoloso negli stati italiani. Donizetti arriva a Parigi preceduto dal fiasco del Marin Falliero al Théâtre des Italiens. Il pubblico francese fischia il compositore italiano ma lo stima, mentre gli esuli mazziniani lo accolgono con favore. Lo stesso Mazzini comincia a seguirlo con interesse, ce ne parla il professor Giulio Ferroni. Donizetti preparò un Marin Falliero che suscitò grande interesse proprio anche negli ambienti degli esuli italiani, perché era una storia di un doggio veneziano che si alleava con il popolo contro l'aristocrazia, e questo era legato a fermenti molto forti di democrazia, di libertà, esigenza militante molto forte, e suscitò una grande curiosità tra gli esuli italiani, che ce n'erano molti presenti a Parigi, e tra l'altro tra questi c'era anche Mazzini, che proprio in conseguenza della suggestione del Marin Falliero scrisse un importante, bellissimo saggio pubblicato proprio nel 1836, La filosofia della musica, dove indica in Donizetti il musicista che può rappresentare, no, la nuova anima italiana ed europea legata all'esigenza di libertà e di lotta per la patria, unificando insieme l'aspetto melodico e individualistico proprio della musica italiana e quello armonico e sociale ideale proprio della musica tedesca. Nei giorni che precedono le insurrezioni del 1848, durante una rappresentazione di Gemma de Vergy a Palermo, mentre il tenore canta «Mi togliessi cuore e mente, patria, nome e libertà», la parola «libertà» scatena i sentimenti risorgimentali del pubblico, che comincia a gridare slogan patriottici, costringendo la prima donna della serata, il soprano Teresa Parodi, ad entrare in scena portando un tricolore. Ce ne parla il musicologo Gioacchino Lanza Tomasi. Mazzini, nella filosofia della musica, questo suo trattato che indicava nella musica la potenzialità in aiuto, diciamo, del movimento della giovane Italia, nel Marin Falliero vede l'opera fondamentale. Scoperta travolgente, e anche nell'opera abbiamo sempre l'immedesimazione, cioè diventa quello che era un sogno, diciamo, della borghesia o della classe alta italiana, questa idea del buttare la propria vita, buttarla nel niente, da cui poteva nascere non un moto rivoluzionario, un'idea, diciamo, della gioventù che si sarebbe bruciata generalmente per amore nell'opera, ma nello stesso senso con cui ci si buttava in un'avventura come quella, era quella di una rivoluzione scoperta. Caricate! Viva l'Italia! Il Risorgimento è anticipato dalla storia della musica. La musica è il primo elemento che ha veramente unito gli italiani. Mazzini, che era un grande intenditore di musica, ascoltando e studiando Anna Bolena, aveva capito che quest'opera rivoluzionaria aveva veramente diffuso il concetto di italianità nel mondo, non solo dal punto di vista linguistico, ma anche dal punto di vista dell'italiano come personaggio. Quanto è cara, quanto è bella! Ah! Avete sentito il presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Bruno Cagli. Rinchiuso nel manicomio di Ivry-sur-Seine per la pazzia provocata dalla sifilide, Gaetano Donizetti torna a Bergamo quando ormai è paralizzato. Muore l'8 aprile del 1848, ormai minato nel corpo e nell'anima. Giuseppe Mazzini gli invia un soggetto, accompagnato da parole forti e commoventi su di lui, già prigioniero della pazzia. L'unico il cui ingegno altamente progressivo riveli tendenze rigeneratrici. L'unico che io mi sappia, sul quale possa in oggi riposare con un po' di fiducia, l'animo stanco e nauseato del volgo di imitatori servili che brulicano in questa nostra Italia. Questo rigore estremo, capitano, appressate. Io dillo, io tremo. Un teleario ossava teste di giorno dal duca al palaggio con man profana cancellò l'augusto nome di Porcia. Il reo si cerca. Io non è castoi. Non vi sapete. Gli era sta male il trove. Alcune sue compagne come se fanno. Non è vero. Udite. Siate sincero e dite se il reo voi siete. Uso a mentir non sono. Che della vita stessa più caro l'onor mio, duca Alfonso il confesso, il reo son io. Misero me i piedi, dammi duca al parole.